2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 13 e 14 di agosto. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Per chi non ci conosce, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Questa è la nostra puntata principale. Durante l'estate abbiamo un'edizione più corta rispetto al solito, una mezz'oretta dalle 15.30 alle 16. E poi anche la nostra replica la domenica pomeriggio. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, ci sono sempre molti ascoltatori che scrivono commentando la puntata della settimana o le notizie della settimana, e quindi c'è anche la possibilità di scambiarsi alcune idee anche su Facebook. Ci trovate molto facilmente scrivendo e cercando 2024. Oggi parleremo del mercato della telefonia mobile, tenendo conto che in questo mercato sono sempre più importanti gli smartphone. Abbiamo alcuni dati che sono stati pubblicati in settimana da Gartner che ci permettono di commentare quello che sta accadendo sia a livello di produttori ma anche e soprattutto a livello di piattaforme, quindi di sistemi operativi. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il nostro sistema podcast, molto utile, molto utilizzato, molto comodo. Cercatelo sul nostro sito internet www.radio24.it e vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Un paio di notizie, questa è una settimana con poche notizie, anche se in realtà nel resto del mondo l'attività, in molte parti del mondo l'attività continua come sempre, ma in questa settimana non ci sono tante notizie. La più importante però è una vittoria di Apple, perché da pochi giorni sono state vietate le vendite del nuovo Galaxy Tab 10.1, uno dei tablet lanciati di recente anche in Italia da Samsung. Le vendite sono state vietate in Europa. La Apple si è rivolta con successo al Tribunale di Francoforte, ottenendo il ritiro immediato del prodotto dai negozi appunto di tutta Europa. Secondo la Apple, e a questo punto potremmo dire anche secondo i giudici tedeschi, il Galaxy Tab è copiato soprattutto nel design, nelle icone dell'interfaccia, nel packaging, quindi nella scatola, e anche addirittura nell'alimentatore, che quindi fanno sembrare questo prodotto molto simile, come dicono gli esperti, nel look and feel all'iPad. Samsung ha naturalmente presentato un ricorso che verrà discusso il 25 di agosto. Ma da qui al 25 di agosto non si potrà comprare questo prodotto in gran parte dell'Europa. L'unico paese dove non è stato bandito il Galaxy Tab è l'Olanda. Quindi se volete acquistarlo potete andare in Olanda oppure trovare un negozio online olandese. Per gli amanti degli anniversari, io non sono tra quelli, però questa settimana, in mancanza di molte altre notizie, citiamo anche questa. Il 12 agosto del 1981 IBM lanciava sul mercato il 5150, che per molti rappresenta l'inizio dell'era del PC, naturalmente anche per l'IBM, soprattutto per l'IBM. Vi ricordate i famosi IBM compatibili, i personal computer che forse sono stati tra i più venduti della storia? Nel festeggiare i 30 anni di questa era del PC, IBM ammette che questa piattaforma è da considerarsi in declino, se non addirittura morta. Se ricordate, o se non lo ricordate, ve lo ricordo io, la prima puntata di 2024 dell'anno 2011 era intitolata La morte del PC, perché naturalmente di fronte all'ascesa di smartphone da un lato e tablet dall'altro, il ruolo del computer in tutte le varie forme è sicuramente messo in discussione. Sicuramente non parliamo di una morte già avvenuta o imminente, ma il trend è quello anche di un cambiamento molto radicale di questa piattaforma. Adesso parliamo del mercato della telefonia mobile. Come vi dicevo, in settimana Gartner ha pubblicato i dati relativi al secondo trimestre dell'anno. Dati sicuramente molto interessanti. La cosa più interessante è che le vendite in tutto il mondo crescono a due cifre per il mercato generale, con due cifre ma addirittura del oltre il 70%, 74% le vendite degli smartphone. Per parlare di questi numeri e naturalmente del mercato è con noi Carolina Milanesi, che a Londra, da Londra, e non solo da Londra perché è sempre in viaggio in giro per il mondo, guida la divisione relativa proprio ai terminali mobili, mobile devices di Gartner, responsabile delle ricerche a livello mondiale. Carolina, bentornata a 2024. È sempre un piacere. Partiamo proprio dal dato positivo. Il dato generale è un 16,5% sullo scorso anno relativo a questo ultimo trimestre che avete rilevato, il secondo dell'anno, e un più 74% addirittura per gli smartphone. È un dato mondiale, naturalmente, che andrà visto in modo differente zona su zona. Qual è la zona, l'area del mondo che tira e traina di più? Ma l'America senz'altro continua a essere il mercato dove c'è molta attenzione, specialmente nella fascia alta. L'Europa ha avuto un leggero rallentamento in questo trimestre, secondo noi per un po' di stanchezza di quello che è il rimpiazzo veloce nella parte alta, e anche magari un po' di non trovare nella fascia bassa effettivamente ancora dei prodotti senza compromesso. Hai molti di più rispetto all'anno scorso telefonini che sono smartphone, che hanno dei prezzi molto più approcciabili per il mass market, che però arrivano sempre con un certo tipo di compromesso. Quindi che non hanno tutte le caratteristiche che uno si aspetta da uno smartphone. Esatto, e magari a livello proprio di esperienza totale il consumatore non vede ancora quella gran differenza tra quello che era un feature phone e quello che invece è uno smartphone. E questo secondo voi in Europa ha di fatto rallentato un po' le vendite? Un pochino per il secondo trimestre, ma rimaniamo molto positivi per quello che è l'opportunità per il resto dell'anno. Secondo noi la crisi finanziaria che molti paesi stanno vivendo non avrà un impatto negativo né in Europa né in America per quello che riguarda la domanda del consumatore. I telefoni sono sempre quell'area dei consumer electronics che tirano forte, e il consumatore vuole l'ultimo grido, diciamo, per quello che è il telefono che si portano con sé. Guardando ai dati generali dei brand, quindi dei marchi di produttori di telefoni, vediamo, non so se è la prima volta che si vede un crollo così drastico, però vedo che Nokia passa dal 30,3 al 22,8, che è un calo piuttosto drastico, e soprattutto forse per la prima volta, pur rimanendo il produttore numero uno al mondo, ma si avvicina quasi al numero due, cioè non c'è più la distanza che abbiamo visto fino forse a pochi mesi fa. Senz'altro, anzi ti dirò di più, a livello di vendite nel canale, cioè quello che la Nokia ha effettivamente venduto agli operatori mobili piuttosto che ai distributori, sono scesi al terzo posto dopo Apple e dopo Samsung. Quello che li ha salvati questo trimestre è una svendita di telefonini che sono dal canale da un po' di tempo, su cui hanno messo dei prezzi molto favorevoli per cercare proprio di arrivare nel terzo trimestre e poi nel quarto trimestre, quando arriverà il famoso primo telefono sul sistema operativo di Microsoft, con un canale molto più pulito. Quindi con poche rimanenze, diciamo così. Esatto. Quindi vedremo poi cosa succederà. Al secondo posto c'è Samsung, che mantiene questa posizione anche se cala un poco. Invece cala molto LG, se non sbaglio. LG sta continuando a far fatica a effettivamente trovare un po' un'identità sua nella parte degli smartphone. I telefoni sono telefoni che sono di buon design e che sono di buona qualità, però non c'è quel quel tocco in più che ti aspetti per far prendere il telefono di LG invece che un Samsung o un HTC. Dovrebbero veramente fare uno sforzo in più a cercare di dare un pochino più forza alla loro brand. È un marchio, l'LG, che viene sempre visto un pochino meno forte del Samsung, un marchio che se tu vai in un negozio ti senti dire: guarda, il telefono è come quello della Samsung, però ti costa un po' meno, prendi questo. Che non è necessariamente una cosa positiva. Certo. In quarta posizione, questa è sicuramente una posizione di tutto riguardo, anche perché è fatta con un solo tipo di telefono, cioè Apple, che ha il 4,6%. Se guardiamo a questa classifica fino a forse l'anno scorso, diciamo la percentuale di Apple era molto bassa, quindi Apple conferma il buon andamento. E è un andamento lineare o c'è qualche discontinuità per quanto riguarda Apple? No, la performance è stata molto costante e se pensi esattamente al commento che hai fatto tu, che è un prodotto unico, ma per di più è un prodotto che verrà presto rimpiazzato dal nuovo modello, quindi è anche un prodotto, diciamo, che è un po' vecchiotto adesso, no? È passato quasi un anno e nonostante questo il successo continua. Quello che abbiamo visto in particolare questo trimestre è l'aumento di alcuni mercati come l'America Latina, la Cina in particolare. Pensa che adesso Apple è il terzo venditore di smartphone in Cina e il settimo venditore totale di mercato totale. Pensando a quanti venditori ci sono in Cina che sono locali, che hanno telefoni che sono un decimo di prezzo rispetto a quello che è l'iPhone, questa è veramente una performance da tanto di cappello. Sì, esatto. E anche perché stiamo parlando del mercato della telefonia in generale, non stiamo guardando solo al segmento smartphone, dove naturalmente le dinamiche sono diverse, quindi questo è un risultato sicuramente molto interessante. Poi sulla Cina va anche detto che ci sono anche molti cloni, se non sbaglio, di iPhone. Esatto, sì, dal nome, che invece di iPhone sì, è iPhone, ha veramente dei telefoni che fai fatica a capire qual è la differenza fin quando poi non lo accendi e vedi che il software è diverso. Sì. Secondo voi quando uscirà il prossimo iPhone, quindi il numero 5? Ma diciamo che gli ultimi così pettegolezzi lo mettono verso la fine di ottobre. Quindi vedremo se poi questo sarà confermato. Dopo Apple c'è un'azienda cinese che supera invece un'azienda americana, o comunque si posiziona allo stesso posto. L'azienda si chiama, è famosa per gli addetti ai lavori, ma forse per il grande pubblico non tanto, ZTE o ZTE, che è appunto un produttore cinese che fa un po' di tutto per il mercato della telefonia mobile, perché fa anche antenne, infrastrutture, esatto, di rete, eccetera, eccetera. Una crescita dovuta essenzialmente a cosa? Mercato asiatico o anche altro? No, anche in Europa si stanno muovendo molto bene, hanno un telefono che si chiama Blade, che ha avuto molto successo in Europa nella parte prepagata, sia nei paesi nordici che in paesi come l'Inghilterra e la Germania. Diciamo che è l'esempio forse migliore di quello di cui parlavo prima: da una parte uno smartphone da mass market, magari con qualche compromesso, però a dei prezzi veramente molto interessanti. 2024. Non dimenticate il servizio podcast di Radio 24 e anche la possibilità di riascoltare le puntate di 2024. Io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. A proposito di puntate da riascoltare, da scaricare da internet, vi consiglio, tra le ultime che abbiamo realizzato nel mese di luglio e nella prima settimana di agosto, quella relativa ai cookies. Abbiamo raccontato alcune novità e fatto anche un po' il punto della situazione, ma una puntata che io ho trovato molto interessante. E poi vi consiglio anche di riascoltare l'ultima puntata della settimana scorsa relativa alla radio digitale. È stato lanciato un network digitale in Germania, sicuramente una spinta alla diffusione della radio digitale in tutta Europa. Abbiamo fatto anche il punto della situazione in Italia, le cose faticano a decollare, siamo ancora nella fase sperimentale, anche se gli editori sono pronti, manca solo il bollo del Ministero dello Sviluppo Economico, che non si decide a dare una serie di autorizzazioni che mancano già da alcuni mesi. Speriamo che in autunno, dopo l'estate, comunque arrivi qualche novità. Riprendiamo la puntata di oggi, stiamo parlando con Carolina Milanesi, che è responsabile mondiale delle ricerche relative ai mobile devices, quindi ai terminali mobili per Gartner, e siamo arrivati a RIM, Research in Motion, l'azienda che ha inventato la posta elettronica in mobilità, il famoso BlackBerry. Alcuni esperti del settore dicono che questa azienda sta avendo qualche problema, allora vogliamo capire quali sono questi problemi. Una competizione molto molto più forte. Se guardiamo a quello che è il loro mercato principale, che è l'America, il Nord America, hanno una competizione molto più forte sia da iPhone che da Android a livello di sistemi operativi. E sono attaccati nel loro mercato principale, che è il mercato del business, e anche una fatica, diciamo, a entrare in maniera più dominante nella parte consumatore. Loro sono stati molto bravi, hanno avuto molto successo grazie a dei prezzi che sono scesi, quindi dei device come il Curve, che sono arrivati adesso dei prezzi molto molto più abbordabili, che hanno poi un software di messaggistica, il famoso BBM, che permette, con il pacchetto di dati che tu prendi, di fare praticamente instant messaging gratuitamente. E questo li ha spinti moltissimo in mercati come l'America Latina, come alcuni paesi dell'Asia, e anche in Europa. Adesso le cose stanno un po' cambiando, perché adesso ci sarà anche iPhone con lo stesso tipo di servizio, dove io con iPhone posso comunicare con iMessage. Quindi la competizione sta senz'altro aumentando. L'altra cosa che hanno mancato come trend è un telefono che ha solo touch. Sì, che arriverà tra poco, però certo siamo in ritardo. Esatto, siamo in ritardo e arriverà in un mercato dove ce ne sono molti altri già, e quindi sarà difficile cercare così di differenziarsi. Sì. Tra l'altro quello che tu citavi, il famoso BBM, BlackBerry Messenger, è stato anche argomento di discussione in questi tristi giorni per Londra, perché si è affermato così tanto per essere un sistema di messaggistica in tempo reale gratuito tra anche giovani, che veniva utilizzato da questi teppisti per darsi voce da un luogo all'altro della città, se non sbaglio. Sì, correttamente. Secondo me, diciamo, un pochino così non tanto giusto andare a dire che la colpa di quello che sta succedendo a Londra è proprio del BBM, come hanno fatto alcuni nella stampa qui inglese. La ragione per cui i giovani lo usavano è la natura gratuita, ma anche la famosa sicurezza di RIM, dove tutti i messaggi che tu mandi sono criptati, e quindi non era possibile per la polizia effettivamente riuscire a decifrare questi messaggi. Esatto, che è una delle caratteristiche più interessanti per le aziende, cioè quello della sicurezza di questi messaggi. Esatto, è ironico che la cosa per cui sono più famosi in questo caso non ha funzionato. Esatto, e tra l'altro, se vogliamo proprio citare anche altri episodi, questo è uno dei motivi per cui soprattutto in Medio Oriente e in alcuni paesi dell'Asia questo sistema era stato messo sotto osservazione, in alcuni casi anche bloccato. Poi c'è stata una trattativa con RIM, perché appunto gli stati dicevano: ma questo servizio è troppo difficile da intercettare. Cito velocemente le altre aziende che sono dietro a queste posizioni che abbiamo citato e commentato: c'è HTC, poi Motorola, Huawei, che è un'altra società cinese, Sony Ericsson, e poi arriviamo a, lo stiamo commentando da qualche mese, ma è sempre molto interessante, oltre un terzo del mercato, quindi quasi il 36%, quindi più di un terzo del mercato, occupato da quelli che voi chiamate altri, ma che definite anche white label, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, una di questi altri sono marche che non abbiamo mai sentito prima, come dicevo prima, questo nomi come Mokia invece di Nokia, con la M di Milano, esatto, piuttosto che Sin, che vuol dire peccato in inglese, che non so se come brand sia necessariamente buona. E altri nomi che proprio non si sono mai sentiti. Quindi fai conto che di questi 284 milioni che sono stati i pezzi venduti nel trimestre, quasi 130 milioni sono di queste brand che non abbiamo mai sentito. È incredibile. Quindi vuol dire che questo mercato è molto frammentato. Che tipo di segnale è questo? Secondo me sono due segnali. Uno è che la barriera d'entrata per fare un telefono è scesa moltissimo e quindi hai aziende che non hanno necessariamente bisogno di avere un'esperienza di anni e anni per arrivare sul mercato e darti un telefonino che costa 30-40 dollari. E l'altra è che anche se guardiamo i mercati emergenti c'è un interesse enorme ancora per i telefoni. Dobbiamo ricordarci che per tante persone nei mercati emergenti il telefono è il computer, però anche un segnale che questo interesse, questa fame di tecnologia, se vuoi, non può necessariamente essere colmata da venditori di primo piano che a livello di prezzi, ma anche a livello di attenzione a quelle che sono le esigenze locali, mancano di sottigliezze, ecco. Senti, non abbiamo ancora detto, comunque abbiamo solo accennato ai sistemi operativi, che è un altro settore, un'altra area da tenere sott'occhio. Questo trimestre segna la vittoria definitiva, non so se definirla così, di Android su Symbian e una leggera crescita anche di iOS. Come vanno le cose da questo punto di vista? Ma diciamo che i problemi che la Nokia ha ovviamente sono legatissimi a Symbian, no? Le due cose sono quasi la stessa e quindi non è da stupirsi vedere Symbian avere un decremento così forte. Hai accennato prima appunto alla debolezza di Nokia nella parte degli smartphone. Nel frattempo hai un Android che adesso a livello di marchio è conosciuto dai consumatori anche in Europa, dove diciamo l'interesse è arrivato un pochino più lento rispetto all'America, e poi dicevo appunto prima un discorso anche di prezzi che adesso è sceso un attimino e quindi a livello di opportunità nel mercato si è allargata. Anche un discorso interessante però, perché se guardiamo ultimamente Android è anche al momento il centro di tante vicende di tribunale per quello che sono tutto un discorso di brevetti. Ecco. Patents sono gli inglesi, e adesso io lo dico perché è bene ricordarlo, Carolina Milanesi, oltre che vivere in Gran Bretagna, lavora a livello internazionale e come molti dei nostri esperti parlano tutti i giorni in inglese, quindi forse è una delle poche eccezioni che fai quando parli con noi, parlare in italiano. È vero, specialmente di lavoro. Esatto. Quindi diciamo sì, Android è al centro di una battaglia legale dove ci sono più protagonisti e quindi questo dal vostro punto di vista è importante in questo, diciamo, in questo momento in cui cresce molto nel mercato, per quale motivo? Ma è importante perché ha delle ripercussioni specialmente a livello di vendite per quanto riguarda per esempio le aziende. A livello di consumatore non ti preoccupi necessariamente se compri un telefonino che poi magari può avere dei problemi a livello di brevetto per quello che può essere il discorso dell'interfaccia. Però se sei un'azienda, prima di decidere di spostare tutti i tuoi addetti ai lavori su una piattaforma che magari non sarà non avrà lo stesso numero di venditori in un anno piuttosto che un anno e mezzo per queste battaglie legali, magari questo diventa un problema. E voi continuate a essere molto positivi su iOS, che continuate, mi sembra di capire, a ritenere il sistema operativo, se non migliore, quello che ha un numero di caratteristiche che vanno incontro alle esigenze dei consumatori più elevato. Sì, è un po' il discorso di quello che ti porta all'open source, che è di Android, che quindi dove c'è apertura, dove tutti possono contribuire, ma poi hai appunto un discorso magari di brevetti e anche di frammentazione, verso invece un discorso di chiusura che tanti non amano, di Apple che controlla tutto, che però grazie a questo controllo riesce a darti un'esperienza un po' più ricca e un po' più stabile, diciamo. Molto bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere rimasta con noi anche in questa metà di agosto, che lo ricordiamo, questo va detto e va ripetuto ed è importante, che normalmente per il resto del mondo, o comunque soprattutto Stati Uniti e Asia, la metà di agosto fa poca differenza con la metà di settembre o la metà di ottobre, eccetera, eccetera, giusto? Esattamente, lunedì si lavora come sempre. Esatto. Grazie, buon weekend, a presto, buon lavoro. Arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Trovate il file MP3 della nostra trasmissione tra poco online sul nostro sito internet www.radio24.it. Cliccate nella pagina podcast e lì troverete il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, se volete contattarmi scrivete a 2024@radio24.it oppure su Facebook cercando appunto la nostra pagina, la pagina di 2024. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.